bagaglio, ma maturo 24 3 3 4, hai capito, froscio. Domani parlo con quella bagaglio, ma maturo quando parlo, hai capito, froscio. Domani faccio il 24 3 3 4, hai capito, froscio, drogato. Mamma tua, 24 3 3 6 4, adesso do a tutta la frequenza, così rompono i coglioni a tutti, capito, froscio? Perché scusa il numero tuo, aspetta, froscio, eh? O fai il 24 3 3 6 4 di nuovo, eh? Froscio, dato, se lo vuoi fare di nuovo con la bagassa, mamma tua, dimmi se lo vuoi fare, brutto porco. Froscio, tua madre è una bagassa, hai capito? Che mi hai rotto i coglioni! Scusate, vedrai come mi sveglio con la bagassa di tua madre. 24 3 3 6 4 24 3 3 6 4, vedi? Adesso lo dico a tutta la frequenza, tuo numero, coglione! Faccio scusare il numero tuo, voglio vedere se te vai in affanculo. Mi sveglio con la bagaglia, non è tua. Se crepi assieme ad altro, mentre non ti fai, vedrai prima o poi c'è crepi. Il numero tuo, 24 3 3 6 4, vedi? Tanto lo so che sei tu perché l'hai staccato il telefono, porco. Hai capito? Porco. Hai capito? Vabbè, e domani te lo faccio scusare come lo faccio scusare ad auto, ma in telefono, hai capito? Ti faccio crepare a te e a quella grande bagassa a manduia. Froscio, e io do i tuoi, 24 3 3 6 4. Poi dico, piazza Bottego numero 3, drogati non ci parlo, capito? Meno male che me l'ha detto una persona che ti conosce, che sei drogato, froscio. Era un particolare numero tuo, capito? Eh? Capito? Che adesso ho capito che sia tu che sei tua madre, siete d'accordo, capito? Coglione. Eh? E stanotte ti faccio più mai di telefonate. Che non sapessi il numero di Danilo, Snoopy, 24 3 3 6 4, via Bottego numero 3. Capito? Cosa credi, che ho paura di te, eh? Vabbè.